7. Ascolta e controlla. 1. Silvana va in lavanderia e Piero prepara il pranzo per tutta la famiglia. 2. In questo momento sto parlando al telefono con Gianni. 3. Oggi andiamo a Roma in treno per visitare la città. 4. Silvia arriva a scuola alle 9 e resta fino a mezzogiorno. 5. Studiamo l'italiano da 2 settimane e oggi scriviamo una email in italiano. 6. A che ora parte il treno per Milano? Parte alle 2. 7. In questo momento stiamo mangiando una pizza ai funghi al ristorante. 8. Matteo gioca a calcio in una squadra giovanile. 9. Per andare da Roma a Parigi ho bisogno di prendere l'aereo. 10. Il giornale di Angelo è sul tavolo, vicino al vaso.